più giovane. Amore mio, tutto è possibile, tutto è possibile, tutto è possibile. Un fermo immagine. Non riesco a galla quando non tengo la tiena tutta quando con te. Non c'è sta un'arma che mi salverà me stessa però senza morire o senza sapere. La vita perde un po' a chi combatte. E che ne sai si rimane pure a luna va a brillare come il sole. E che ne sai si rimane mentre gara vola. E che ne sai si rimane bene. E che ne sai si rimane vinci pure tu. E che ne sai si nato veramente. E che ne sai quando giove chi vuoi bere. E che ne sai chi io vero te vuoi bene. Che ne sai? Cade via tutte cose. Che rimane vero come una coppia in nuvola. E dopo una poca poi c'è abitudine. Poi può scendere, poi non credere. Fin quando tu ce la fai non molla mai perché. Non sai quando sta lontana quella da unis. Senza fare amore, quando pierdi un bar, come è stato solo. Non si presta un suono, non si giura nell'occhio. Nella vita che verrà, sarai più giovane. Amore mio, tutto è possibile, tutto è possibile, tutto è possibile. Un fermo immagine.